agganciato alla massa, ok? È agganciato alla massa. Per poco non l'ho fatto anche all'uscita, non l'ho fatto all'uscita per questione di comunità, altrimenti li avrei collegati da massa immediati, avrei collegato con la pedina di accordo, con imbracciati in particolare. Diminuisce ancora drasticamente il livello di spiegamento, uscito da un minuto, un attimo. Diciamo che abbiamo più esigenze. Perché allora tu hai il massimo rapporto, perché la capita un vermente, perché c'è un principio, ovviamente, alla stessa, perché è un principio per il tempo. Ciao, aspetta che c'è qualcuno che ha chiesto il break, avanti. Buonasera a tutti, già vedo più, ciao. Ciao Gianni. Appla. Cappagappa. Allora, come sa va? Come sa va? Aspetta niente, vieni pure per te. Sono 200. E? Per ora sì. Bianco, per davanti. Cappa. Roberto se ne è uscito. E allora già. Questa sera sono andato alla messaggeria e salve. E mi sono comprato l'ultimo dei nomadi. In vinile. Assassino farabussola, quanto l'hai pagato? Ma ha lasciato 17 perché costava 22. Ma l'ho lasciato 17 e poi l'ho preso dischi anche a seconda mano perché è quello lì nuovo. Ma dice che a Natale ne aveva parecchi, ne aveva un bel. Adesso ne ha pochino. C'è poca scelta, c'è Celentano, qualche cosa di vecchio, c'è qualche cosino. Però me lo, mi sono preso quello dei nomadi che era ancora sigillato e tutto. E mi ha detto, guarda, questo è il nuovo, l'ultimo che hanno fatto. Ma, aspetta, ma ne prendono altri, ne mettono altri. Mi ha detto che faccio un salto ogni tanto, che ogni tanto ne prendono. Poi c'ha una serie, un elenco sul computer che mi ha detto può essere o non essere aggiornato, comunque. Io questi qui posso ordinarli perché forse li hanno. Diciamo che qualcuno magari può mancare perché non, magari non è aggiornato a non è aggiornato a oggi, però la maggior parte dice si trova. Sì, ma tu hai parlato con lui, c'è la nuova produzione che sta ampliando. Sì, sì, ho parlato, ma ha detto che non ne sa nulla, che comunque in ogni caso dice che non è mai finita la vendita dei dischi perché hanno sempre continuato ad andare. Diciamo che il CD ha superato il disco come può essere per la frequenza che diciamo che internet ha fregato un po' il fatto di stare in frequenza, però ha detto che sono sempre in vendita perché il continente dice che ha trovato un posto dove c'è un grandissimo mercato di 33 e di 45. Sì, ma lo sapevo, questo lo sapevo, ma io voglio capire la produzione attuale del distributivo, la produzione attuale è una cosa che sta legando con appunto nuovi CD a richiesta dagli autori? Questo qui è una domanda dei CD unica. Perché questo non lo so, però so che per dire smettere di farlo scendere, si tratta, diciamo, per dire, i dischi li fanno sempre, perché io ho dischi nuovi, tipo, nuovi, oddio, non saranno quelli che hanno fatto ai 100, Vespa 50, Vasco Rossi, Mix, c'è tutte quelle lì, capito? Le buscavo da DJ, praticamente c'era un negozio a Sassari che vendeva apparecchiature per DJ, strumentazioni per discoteche, tutta questa roba qua, tutta seconda mano. La faceva arrivare da fuori, che vendeva seconda mano, strumenti, Io per questo vendeva gli ski. Tra l'altro io ho trovato gli ski molto recenti, di Giannanini, cose, tutti 45 giri, jukebox, quelli che hanno la copertina bianca. Ma quello che importa è che loro continuino a portare anche le voci di nuovi artisti, perché se a me mi serve musica nuova facciare, ma ce ne sono meglio, questo è che mi interessa, per esempio si dice ma tipo la Zulumo, si chiama tutto vacca, anche qualcosa di insomma, ma sempre che ci sia una vasta scelta. E c'è Vassemon, Grand Funk, America, qualcosa, non mi ricordo se anche qui cosa mi ha detto, comunque ci aveva qualche cosa. Il tipico? Mi sa di sì, che me l'ha detto, però non sono sicuro di Beatles, però mi ha detto anche Simon Grand Funk, gruppi tipo gli America, ti piacciono gli America? Hai qualche cosa da ascoltare, mentre sarete cucini, i nomadi, poi i più, poi i più che hanno appena fatto, Beatles, Rolling Stone, Lamini, che mi piace da morire, il fondo veneziano, un Pesci, insomma tutti migliori. No, a me praticamente stavo cercando musica discoteca anni 80, ero indirizzato su quello. Però mi ha detto che momentaneamente c'è una roba, ultima uscita, roba del genere. Poi ha detto, in questa elenco comunque qualcosa ce l'ho. C'aveva anche, non mi ricordo che canzone fosse, comunque è una canzone degli anni 80. Ma c'è 45 giri, adesso non ho voglia di andare a guardarlo, ma non mi ricordo adesso com'è. Ah, Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Così quello è bellissimo. Io ce l'ho. È in 45 giri, però formato 33. Ma ce ne sono altri? Quello lì ce l'ha. Quello lì ce l'ha in elenco. Se ti sbrighi domani lo becchi. Lo becchi domani, perché ce l'ha nell'elenco, al computer. Non è che ce l'ha lì, no, lo deve ordinare, però voglio ce l'ha. Comunque per la linea di posto, fuori da fare grosso, come fai a cercare? No, se non lo dici che mettono una fornitura, non è che se lo mettono. Avanti, vuoi entrare? Oh, Vinicio, Vinicio Moro. Lo sai di Vinicio Moro? Dio, già. Un bisbiglio, sento, ma non capisco cosa dici. Vinucci, avanti, avanti. Vinucci, è lanciato piano. Sei chiarissimo. Sei chiarissimo di... un po' di so. Ho 10 anni che non si intende. Sono capito davvero. Giovanni e Gianni, due figli. Aspetta di cui si una rosa. Ma comunque lui ha intenzione di andare avanti che sono il cazzo già. Ha detto sì, che ogni tanto fa andare avanti. Io ho detto guardi che stanno venendo anche i piatti adesso di nuovo. Bisogna informarsi perché. Dice sì, ma c'è stato un periodo che si è bloccata la vita, adesso visto che a Natale ne ho portato un bel po', ne avevo un bel po' a Natale, ha detto che ne sono rimasti una decina. Allora hanno fatto il piatto con le MP3, tutto integrato, e poi sapevo dire a me che queste cose, lui, dall'America alla Germania, dalla Germania all'Italia, tutto. Andando, la cosa sta andando, saranno gli autori a proporre dopo, vedrai, vedrai che ne saranno una marea di dischi, ce ne controlleremo, Vabbè, a me già mi piace più che il CD, figurati. Il CD è strettamente numerico, quindi non è quel suono, cioè non si può fare, non ha naturalezza, non è spinta, anche se io ho delle macchine più frescate, con altissima anche su una precisione con versione Pinterest come Camus da 40 milioni di vecchie lire, però è un oggetto tecnico, cioè una bomba a mano, la canzone di Lecce, se c'è delle una bomba a mano non dico dire altro, infatti quando lo metto scoppia tutto qua, con un cilindro allucinante con questo cilindro allucinante, no, da non paragonare fortissimamente a certi cesti di, diciamo, avanti per un certo modo. Dedicato il mattone Cavegna. E il mattone Cavegna è dedicato, non per fare giovane. Ma per volta, noi non dobbiamo fare metà dei guasti. Oramai la fabbrica si è riunita, non c'è. Ammetti lui che se ne è una potenza di agra. Sì, saluto, chi sei? Corrido. Ah, no, ragazzi, ma che ero finanziario. Ha fatto il suo popolo al mondo, ciao Gianni, ciao Gianni, ciao Roberto, ha fatto un qualcosa. Poi, bilancio. Un cavallo, no? Sei in pista che corre da solo, ti guarda dietro, non c'è nessuno, dice mamma mia quanto corro. Però poi non ci sono gli altri cavalli. Lo giungo. Mi ha tirato, beh senti te lo portanto, amico. Ciao, ciao. Ciao, ciao, guardate, guardate qua. Fino all'anno scorso ero il più forte di Angelo. Facevo da solo, poi sono messo in guardia. Adesso sono il maraforte, non è così a te. Diciamo così, tra i più forti, e dai, tra i primi due, dai, in pole position. Quello sarebbe da averlo, assassini, i miei destini, i miei non prendi. Ma sai quanti ne ho di rischi? Io infatti ne ho visti qualcuno già, ne ho centinaia di LP, anche 45 giri, li ho presi in blocco da una stazione radio e ne avevo già tantissime anche io, quando c'eravamo la radio ne ho tirato fuori qua. C'ho, diciamo, la musica dagli anni 80, dagli anni 75, dagli 85, ci si può dire c'ho quasi tutto, la roba principale, dai. Non l'immaginata. Di vedere cose così, così. Va bene, comunque già scenderò a mettere le scale per vedere cose nuove, incoraggiamo questo settore qua, se andiamo avanti con euro e diciamo l'eccesso col CD, va bene solo con i CD, va bene solo per il personale, tra un po' scarica anche lì. Vediamo qui il nostro caro bellissimo disco nero, mamma mia come suona bene. Appetito a tutti, ciao per il certo modo, ciao finale, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, tu sei nostalgico come sono io. A me piace molto il disco finito. Io Roberto, di quelle musiche lì c'ho September, poi la febbre sabato sera, Sento della Fever, e poi c'è un coso, Dolan Mebili Sandestu, poi credo che posso dire, c'è tutte quelle più belle, poi c'è tutti quanti, c'è tutti quanti quei cosi, quei twist, tutti mixati, canta buca bello, che lo rime. Allora, quello che non è tutto sono i Boni M, cioè l'LP me lo sono comprato l'anno scorso. Io ce l'avevo in cassetta, con l'LP lì me lo sono fatto, me lo sono cercato e me lo sono preso. E altri Win and Fire, quelli che hanno fatto September, tutte le canzoni, le flow, un sacco di cosa, e ce li ho in CD quelli lì. Ma tutti non erano quelli? Diciamo non è che ne hanno non ne abbia, io ho delle compilation, perché molti sono, io prendo, sono dischi da radio, vinili da radio, dove ci sono ripetitori, per dire su un LP in una compilation la puoi trovare su un'altra compilation lo stesso titolo. Vabbè. Sì, avanti. Consigliata quella delle piccicciai. Cosa hai detto, ho capito? Hai detto che c'è delle piccicciai. No, CD ho detto. No, non bene, LP. Guarda l'LP. No, vabbè, poi si abbia sbagliato. Io ho letto, l'LP ce l'ho in LP. E cosa ce l'ho in CD? Vabbè, forse ha giocato, mi scusi ora. Già, io ho segnato. È Burelli per Paolo con la febbre, però sempre bastardo. Dai, che bella, allora, ogni tanto bisogna dire queste cose, segnare nel libro nero. E allora. E comunque Roberto non lo sapevo che ne avevi così tanti, no io non ne ho così tanti, però quelli che ho grazie a Dio sono belli. Io ho anche il mitico Piange il telefono. Sì, allora io ti dico Gianni, senza esagerazione, senza falsa modestia, c'ho intorno ai 600, forse qualcuno di più, di 45 giri, di non playing, che poi la maggior parte sono compilation, ne avrò 300-350, in tutto ce l'avrò intorno ai, come titoli, più di 3000 titoli. Ma li hai tutti catalogati col titolo, eccetera, eccetera? Sì, il 99% è catalogato, io ho una rubrica dove tu ti interessa a questo gruppo, parliamo di gruppi, non ho fatto il discorso col titolo, per dire Moni M, vado a Moni M, mi dice LP numero 51, traccia numero 2, e vado di lì. E tu dove si fa, dice che cosa? Umberto, svegli un po' di canzone della discoteca e un CD, fate un CD con tutte le migliori canzoni. Ho anche un MP3, un MP3 fondamentalmente. Fai un bel MP3 di lusso. Certo, cosa ne dici? Sì, già, però lo sai, il discorso è vero, mi tuffo molto facilmente, molte volte mi mettevo a registrare, se mancano centinaia di videocassette, di cassette audio, cioè non so cosa la radio, ma poi alla fine ti stufi. Io a me non mi piace, cioè io solo voglio sentire cose nuove, cioè canzoni che non ho mai sentito, qualche volta ascoltarti, però io vedo quando mi faccio una compilation, me la metto, me ne tuffo subito, me la ascolto due o tre volte, poi boh, basta, se la lampo, non mi interessa più. I dischi invece ogni tanto, posso dire, io dei dischi che ho, molti, almeno il 30%, non li ho mai sentiti, molte volte non conosco l'autore, cioè conosco l'autore però non conosco il titolo della canzone, e poi cavolo, questa ce l'avevo e non lo sapevo, ma canzoni famose, dico, di un sacco di cose, adesso, quella è Boni M, non l'ho comprato perché lo conoscevo dell'EP, dove c'è la più bella di tutti, non so se la conosci, ma è Beccaro, ogni tanto la tirano fuori, la fa vedere la televisione quando c'è Bonulisi che è fissato con il Boni M, ogni tanto la tira fuori, ed è una canzone spettacolare, c'è un ritornello, forse una delle più belle in assoluto, la discoteca. Sì, roba di Marchetti che ho ballato con quella canzone. Mamma mamma, bye back, na na na na na na na na na na na na na. Sì, poi che si le sta facendo, io te le posso elencare tutti i gruppi della Disco Music, dall'Arbore, che ne è stato diciamo con cosa, con la questione del Sacembre, parliamo di gruppi, poi arrivare Boni M, eccetera, eccetera. Ti dico tutto quanto, tutta la storia in mente, infatti molte volte quando ci ritroviamo con degli amici, diciamo, coetanei, che vengono a casa mia, mamma mia, sai quello, fammelo sentire, e molte volte è il gusto di risentire. Poi non parliamo di altri gruppi musicali, perché io ho dei, più che altro, pulita discoteca in minorata. Diciamo, a me interessano i gruppi, quelli che piacciono a me, diciamo, e ne ho tantissime, eppure anche cose magari che qualcuno la maggior parte non riconosce. Io come gruppi adoravo l'America come gruppo mi piaceva molto, ascoltavo un bel quello lì e qui poi ascoltavo sì anche i Nomadi, quelli italiani anche, però a me la musica di discoteca è quella che mi attira di più perché mi ricorda determinate cose, determinati luoghi, quando andavo a ballare al Pebai, non so se tu hai conosciuto la discoteca Pebai. A voglia, la prima discoteca che sono andato è stato il Pebai, la cosa, Sant'Orsola, ti posso dire chi c'era, dirigente di comunità e Miracoli, dopodiché la seconda discoteca Sassari, parliamo zona di Sassari, di Terra Nera, non so se ci sono mai andato, su Via Milano, che adesso si chiama Milano 26. Sì, che sono andato un bel po'. Sì, ma il Pebai io ci frequentavo proprio, facevano entrare gente selezionata nel Pebai, non facevano entrare gente in uscì. Era una villetta, mi ricordo, una villa, era. Sì, io credo, lo so bene. E c'è qualcuno che stava parlando, ma chi vuole entrare? Che hanno parlato sopra quasi. Chi è che vuole entrare su 10? Aspetta, se forse c'è Pinocchio che sta chiamando. Attenzione, Buduso, se copi Sassari, avanti, con la buonasera. Dopo fa l'ascoltavo meglio, dai, come non detto. Dai, riprendi già. Comunque qui mi ricordano vecchi tempi, vecchie amicizie che adesso non vedo più. No, io sono un po' nostalgico, ogni tanto mi piace sentire e ricordare. Io? Chi è? Io. Ma carino, allora tu fai di danno, eh? No, no, ora se lo vedi. Che danno? Ma io sono col cazzo. Sono dalla San Salvaretto, diciamo così. No, sto scherzando, non danno nel senso che hai parlato sotto di Gianni, vicino a Gianni, dai. Dunque c'è Gianni, c'è Pierpaolo e poi c'era poco fa da lontano da Buduso, però adesso non ho sentito più, e Gianni l'altro che ha chiuso. quindi lontano, intanto non li sento manco io perché sono antenna una guardia. Ehi, ma da lì, ma c'è non ci si da pure? No, è attivo. No, no, no, aspetta, solo io non volevo mettere la fare. Non mi piace. Mi chiedeva solo, non mi piace. Io ci avevo manco, guarda, naturalmente ci avevo tanto di quei compiti in prima elementare che io non lo so, caro. Mi stanno mettendo tanto di quei compiti a questa creatura, non lasciano il tempo manco, lo sai che in prima elementare ancora li piaccio, sono ancora bambini. Mettili qualche cosa, ma gli ha fatto fare una pagina di quello, una pagina dell'altro, una pagina con una parola che inizia con un fo, l'altra con do. L'altra con du, l'altra con di, cazzo, un problema mi dico. C'è l'altro anche a te, no? E poi fare il disegno vicino di quello che scrive, perché scrive a farfalle, da fare una farfalla e coronarla pure, oltretutto. Cioè, se ne sono tutta la sera per fare i vari compiti. Stavo parlando proprio di questo, mio cieco, come ha avuto, questi bambini non gli danno un po' di libertà. Io te lo posso dire perché ho esperienza personale, che ho una figlia piccolina, lo stesso come la tua, di 5 anni, e più ci sono i bambini della scuola a casa, diciamo, dove ci sono io, e tu vedi i piccini, stanno tutto il giorno a scuola, tutta la mattina a scuola, la sera tutti impegnati, arrivano all'allenamento, sembrano quando tu prendi una persona che la tieni chiusa in un carcere, correndo, saltando, cioè la liberazione per loro, e molte volte non riesci neanche a metterli in riga, in ordine, perché sono talmente contenti di stare all'aria aperta, li stanno, cioè come si dice, il fumo alla testa li fanno uscire da questi bambini. Secondo me perché non ho troppo, insomma, io non dico di non farli fare le cose, però l'esagerazione ha sempre storpiato, secondo me. E lui che si lamentava, papà, ma quanto ce ne metto di questi compiti, ma io non ce la faccio più, non ho dormito manco dopo pranzo, sono stanco. Allora gli ho detto, io marco lì. Molla tutto che ci riusciamo, l'ho fatto staccare un po', siamo andati a farci un giro, siamo andati a messaggi di sangue, lui ci ha mandato questi dischi. Poi ci abbiamo fatto una passeggiatina e siamo ritornati a casa, abbiamo continuato a fare i compiti. E ancora a vedere i compiti, perché se ci ha mirato il camion mia moglie, mi ha detto, vai, rilassati un po' che glieli faccio finire io. Sì, anche poi si accudiva a mia moglie, non gliene metto. Ah, ancora no, ancora quello lì non erano messo, però cavolo, questo qua l'italiano si sta mazzando proprio. No, so, ci sono degli insegnanti che ne ho presi per il discorso di dire e concludere il programma, ma lasciamo perdere, il bambino lo deve far vivere felice, deve avere una vita felice, non uno stress, cazzo, stressare i bambini, infatti sono stressati, i bambini adesso sono tutti stressati. E infatti come si gira Marco, quando dici qualche cosa si gira a voce, si gira tutto incavolato, capito? E non era mai stato così, è stato sempre un momento tranquillo, cosa. Papà non mi vuole dire, mi stai deconcentrando, maletto. Purtroppo a me mi dispiace, io sono la piccola, diciamo lei lo fa molto volentieri, ma vedo la grande che l'ultimo anno in quinta elementare, cioè che l'altro giorno la notte non riusciva a farsi i compiti sino a tardi, sino alle 10:30 di no, stava piangendo, c'erano gli occhi lucidi, ho detto ma non ce la faccio, sono troppo stanca, voglio dormire, ho detto no, li devi fare per però gli ho dato la mano io, e gli posso dire e l'aiutata io, se no non finiva fino alle luna di notte, perché c'era tanta di quella roba da studiare, una ricerca doveva metterci a scrivere, e io l'aiutavo, le dicevo, gli ho detto scrivi qua, lei scriveva, perché sennò guai, allora io sarebbe stata ancora, e stava piangendo con gli occhi lucidi, ma babbo, non ce la faccio più, sono troppo stanca. Beh, quando si riposano queste creature? Se si stancano a casa facendo i compiti, poi vanno a scuola, li fanno finire a scuola, ma hanno un attimo di tregua, dico. Io non è che voglia fare cose, però, il moralista, però, secondo me esagerano con questi metodi che ci hanno adesso. Prima i compiti ci rimettevano, anche per le vacanze ci mettevano i compiti a piacere. Ci comprava il libro, mia madre, coloravamo, scrivevamo, tutto per non dimenticarci la roba. Lo so, ma purtroppo, vabbè purtroppo non è, purtroppo la bambina fa anche catechismo, in quinta elementare fa catechismo il martedì, adesso fa dalle 4:30 alle 5:30, poi dalle 5:30 c'è l'allenamento sino alle 7:15 e poi si deve fare il coso, i compiti, molte volte perché non fa in tempo, arriva la stanca moda, proprio distrutta, certo però purtroppo deve fare, io ti insegnante balordi, se non lo fai ti mettono la notte. Vabbè, lo so. È un metodo balordo, mi vedo troppo impegnati nella scuola. Secondo me i bambini hanno bisogno dei loro spazi, non dico che devono studiare, però hanno bisogno anche dei loro spazi. Unire l'utile al dilettevole. Già lo so, ma poi la cosa più brutta di questi bambini è che non fanno attività molto utile. Io l'anno scorso, adesso quest'anno lo devo iniziare, facevo delle lezioni a scuola per gli insegnanti, e con la cosa che faccio, con quel tipo di lavoro che faccio io, diciamo, sporti, parlavo di attività sportiva, ma sono una massa di ignoranti, questi bambini non li fanno fare niente, li tengono rinchiusi in casa, io andiamo in palestra, io mettetevi a girare dentro, e vedi questi bambini tipo cavallini del circo, girano intorno, cioè il circo che rimane stupito, dice ma questo che un bambino li fa fare le flessioni o cose del genere, cioè cose da, che non fanno lasciare, cioè, quelli che la fanno, perché molti non ne hanno neanche possibilità di farle, l'insegnante non ne ha voglia, non le fanno uscire neanche, le mette in punizione, le dice usci, niente palestra, rimane svolgevano seduti in classe. Fa finta di punirti, invece per chi non mi vuole andare. Infatti a mia figlia quando è punizione, tutti quanti, molti genitori della squadra, dove sono io, dicono no, adesso non ti vado a... No, l'allenamento lo devi mandare, anzi l'allenamento è utile. Torni nella televisione, la prima cosa, spenta la televisione tu una settimana senza TV, a vedere si ciamba la musica. E a Marco basta che tu il PlayStation e computer, poi vedrai che riesci a ottenere tutto. No, la PlayStation ce l'ha messo, mi devo andare a Natale, e boh, e c'hai l'orologio digitale, penso più di 10 minuti non puoi fare, a un certo punto, anzi, è da 3 o 4 giorni che non l'ho utilizzato, perché ci devo essere io e nei tempi che dico io, se non nulla, non ne voglio dire i bambini io con la PlayStation. Che mi fa incavolare davvero. Marco a volte ed è molto intelligente, riesce a fare questi tutti i livelli. Quando non riesce a fare un livello perché è difficile, mi dice papà dammi la mano, non ce la faccio, questo bastardo mi sta si incavola tutto. Ho detto Marco, se ti sento così io ti stacco tutto, perché il gioco deve essere il gioco, devo sentirti tranquillo, no? Sì, papà non grido più. No, io preferisco me, leggero li da usare, la piccolina neanche ne tocca, tra parecchio. No, preferisco con il computer, lei il computer ci va molto spesso, questi giochi interattivi dove ci sono i livelli, diciamo, di intelligenza, esattamente tu devi entrare con la logica a cercare di andare avanti. E infatti questo qua c'erano 9 livelli, i primi li ha fatti abbastanza bene, poi piano piano con difficoltà, l'ultimo dopo tanti mesi è riuscito a farlo. Con la logica, non so come capo l'abbia fatto, però ci è riuscito a farlo. Quelli sono giochi interessanti, che stimoli l'intelligenza, ma se ti vuoi a giocare PlayStation, al gioco FIFA 96 o cosa è, che stai tutto il giorno attaccato con i giocatori lo stesso movimento, la stessa cosa, alla fine ti si fuma la testa, cioè non sono giochi utili per il bambino, secondo me. No, Marco non è di quei giochi. Marco c'è tutti i giochi dove devi combattere, dove devi entrare in certi labirinti, devi uscirne, eccetera, eccetera, devi combattere chi ti viene incontro, tutte queste cose. C'ha tutta la roba di Dragon, ma come si chiama quello brutto, ma quel pupazzo brutto, come si chiama, Streck. Però no, la linea ha pochissime, tra l'altro quelli che c'è sono di quelli usati, vecchi, presi al mercato delle pucce, diciamo. Però stiamo monopolizzando già, vediamo un pochettino di far intervenire anche gli altri. Riprendi per qua. Sì, adesso mi prego, e per il momento mi sento che vado a mangiare qualcosa, perché ho lo stomaco mi fa da pucce. Ci sentiamo un po' più là. Grazie un po' di riso bianco, perché altro non posso mangiare. E ciao, che fa buona carica, buon tutto, non so se ci sarà, ci sarò quando ci sarai tu, perché tra poco stacco anche io. E riprendi la tariffa. Bene, ma lei è figlia, non ho. E beh, ho tiro pure la lotta a un figliolo, una femmina, mi Natali, su 18 anni. No, guarda, nessuno, va bene da solo. Una ragazza di 18 anni, 20 anni, bella piena. No, che da voi mi tocca usare in coda. In coda, beh. Non tu già, non te la puoi adottare, la migliore. A me mi bastano le due che ho. No, sto scherzando, no. Io ho una famiglia che conosco, che prendevano queste ragazze, quelle russe, se le presente. Sì, sì. E c'era il figlio che aveva 16 anni, più o meno l'età di questa. E chi tu si aveva diretto? Fate il padre, la ciappelle, ragazzi, non fa danno. Vabbè, è normale, no? Una cosa naturale. E invece questa vicuña aveva preso questa bielorussa e aveva 14 anni. Beh, questa voleva stare sempre in giro, voleva girare, girare. Antonio, andiamo via, andiamo a girare, andiamo a girare. Prendeva la portava in giro, dice già, vedeva una cosa la voleva, vedeva l'altra la voleva, ci voleva lo stipendio appresso. Pantaloni e questo e quell'altro, carte e roba intima, di tutto gli ha comprato. E dice, cavolo già, è stata una bella esperienza, perché quando pare che siamo messi a piangere e cose perché siamo affezionati, però era una grande rottura. No, così è esagerato, no, certo, non li dà, non dico alla strada del Tavagna, però diciamo deve stare nei limiti. Tanto loro si accontentavano un po', come sono gente, la maggior parte dei poverini, nel senso vivono, molti vivono in collegio, nel senso che non hanno mai visto genitori né niente, li danno in un pezzo di bagno e fanno tutto il giorno. Difficilmente mai trovi gente che è benestante, però non devono approfittare, se no guai. Purtroppo ne approfittavo. Dice che già non è andata a città mercato e comincia a dire, Antonio compra questo, compra il vestito, non mi ricordo come si chiama Natasha, compra il vestito a Natasha, guarda com'è bello, guarda qua, guarda là, le calze, e questo per abbinarlo, le scarpe, tutto quanto era famigliato, dice cacca, il mio amico sei sicuro. Ti fai un coso, un mutuo delle domande. No, è brutto, vabbè, queste sono cose simpatiche, è brutto quando vedi delle famiglie allenate che vengono queste tipe dei paesi dell'est che le trovano nei nati, cacchio, e molta gente se ne scappa con queste panne e le mangiano tutti i sudi. Poveracci, ci sono ragazze, non puoi credimi, perché io vado così nella platavone, mi c'è rifugio un peccatuno, ma il villaggio grigio. Vengono queste ragazze che sono madonnine a vederle, ben fatte di corpo, belle, ma belle veramente di viso, con gli occhi azzurri, alte, slanciate, cioè di pezzi di donna, guarda, che ti viene voglia di sbranarle. Eppure fanno questo cavolo di lavoro, che la degrada in una maniera pazzesca, anche se loro quando stanno là si comprano palazzi questi mesi fa. Sì, sì, è vero, vabbè, purtroppo là. C'è un bel di povertà da quelle parti là, loro qua quando arrivano qua a guadagnare 2.000 euro all'anno, 5.000 all'anno, al mese sono come 20.000 euro per noi in proporzione, per loro è uno stipendio impensabile, diciamo, per cui dice che me lo fa fare, io mi sto un paio di anni qua, naturalmente quelle che vengono di spontanea volontà, poi ci sono quelle che vengono con i giri viziosi e quelle non ne parliamo, quelle sì che fanno veramente pena. Li costringono, li adescano praticamente dicendogli che danno un lavoro dignitoso, poi quando vengono a fare prendono il passaporto, le picchiano e magari si violenteggia le prima e dopo le fanno fare la vita, perché lo so, addirittura ci sono anche ragazzine in mezzo, 18 anni. Io ho un amico intimo. Lui si è messo con una di queste ragazze qua, l'ha conosciuta così, per sbaglio in un bar, si sono trovati, si sono frequentati, alla fine l'hanno minacciato, l'hanno detto nome e cognome, l'hanno telefonato, dimentica, ma cosa sta dicendo? È andato a ritrovare quella tipa e quella gli ha fatto vai, vai, con gli occhi gli ha fatto vai via, e c'erano questi tipi, dice, solo a vederli, dice la giorno, dice, non si è più avvicinato, perché l'hanno, dice, stai attento, sappiamo come ti chiami, hanno fatto nome e cognome, cosa fai? Lasciala perdere, dimentica. E quella lì si è vista cazzo butta, cioè quando è andata a vederla era in un angolo, non basta, è andato appuntamento e è andata con questi tipi qua, proprio l'hanno minacciato di tutto. E poi la maggior parte sono lonfi, si fanno sposare, una volta sposati ti mollano. Interessante che abbiano la cittadinanza italiana e si ne ha futti di Sì, quelle che non sono nel giro, infatti io ho quelle lì che non posso vedere, poverine, quelle che hai detto tu, quelle che sono sottomesse, ma ci sono quelle che, diciamo, le chiamo le madri badesse loro, quelle fuori, diciamo, il capo branco, quelle lì sono le più valorose di tutte, perché io conosco delle persone, non faccio nome qua, perché probabilmente non conosci pure tu questa persona, e questo si è messo con una di queste, ma guarda un po', ha lasciato la moglie, e tutta la famiglia, distrutta la famiglia, per stare con questa bellissima, ma gliene sta mangiando pure le mutande, ogni mese, non so quanti soldi ci porta presso fuori, questa è della, mi sembra la Repubblica Ceca, se non sbaglio, un paese, c'è una nazione del genere, adesso non voglio dire fesserie, e questa gliene sta mangiando tutto qua, e lui non se ne rende conto, talmente il fesso, un amorato che non si rende conto che gliene sta spulciando pure le mutande. Che bello. Magari viene testa perché il conno. Ti sto dicendo già, io non ti posso fare il nome, ma se capita ci vediamo le persone ti dico chi è, perché in questo posto ci sei andato abbastanza, so che ci vai, perché non ti dico in particolare, dai. So che ci vai perché ci va un po' di gente, non solo tu. Chi capita in quel posto ci deve andare per forza, perché se capita in quella situazione deve andare, ma stiamo parlando di Nike, stiamo parlando di un locale, di un bar. Questo qua sta con questa tipa qua, hanno avuto anche una figlia piccolina, questa ci aveva dei figli grandetti e ti sto dicendo è una situazione allucinante. E già ho capito chi è. Cosa fa Barisa? Lo proprietario, non è Barisa, è proprietario di qua. Ah, che paga. Ma già ho capito chi è. È vicino a te l'estate. Ha detto tutto, non entriamo nelle particolari, comunque ha detto tutto. Che paga. Sì, ho capito. Lo so, è sempre lì. Ogni tanto ne viene qualche ex collega, cioè, qui cosa ora, ex collega, vabbè diciamo, chiamiamoli ex collega, perché adesso non c'entra più lei, non c'ha niente a che fare, più, però vengono delle ragazze di lì a dare una mano, e sono di queste dello stesso genere di lavoro, originario di questa qui, e tu le devi vedere, poverino, lo stesso questo amico, lì l'estate parlando, è venuto un tipo quest'estate, l'ha inquadrata subito la tipa, gli ha detto non ti voglio più vedere. E guai, lei non abbassava lo sguardo quando lo vedeva con questo amico mio. Comunque, vabbè, quella persona lì è una viziosa, io lo conosco, non adesso, da un po' di anni, è una ciambata, ha avuto una bella moglie, poi non l'ho mollata per questa, e ne ha avuto altri prima. Sì, no, sto dicendo, non lo sto difendendo a lui, però cazzo, sto dicendo, lì c'è passato anche il figlio, lui c'ha un figlio suo, sposato con la prima moglie, diciamo, questo non so neanche se sono sposati, forse convivono e basta, e ti posso dire che sono state delle storie allucinanti tra lui e il figlio, cioè, a passare il figlio dopo, sotto a questa. Io conosco benissimo tutta la famiglia, bene bene, proprio amici, per cui lasciamo perdere, cambiamo argomento. Li conosco molto bene anche io. Cappa. Vabbè, e lo sai cosa c'è? Che sono belle ragazze. Tante volte ti infattano. Se non ti sei regolare, ti infattano. Già lo so, ma lui la moglie era una bella donna, mica era brutta, cioè era una bellissima donna, questa è bella, l'ho perso anche di più, molto più giovane, ma ci avrà 15 anni di meno, però cacchio, direi che lo vediamo con la famiglia. Non so, ma molta gente non se ne mette in questi problemi, pensa solo a se stesso, non pensa che c'ha figli, che c'ha, dopo chi soffre sono sempre i figli in queste cose, chi ti piace sono sempre i figli. Chi è là? Sono rientrato. Mi hai fatto un po' veloce. Chi era fatto? Io non riesco a curiarmi. Ma eri pizzicato da ieri, per qua. Ti ho sentito dalla voce che eri mezzo pizzicato. Si sente? E io? Ne so male, no? Io sono andato a prendere. Oh, scusate, attimo, signore. Vai, vai. Ma che ti lascio un po' stare di tranquillino? No, la tangente non è stata di braccio, compra. Tanto, da là in bianco. Ascolta, ma c'è fatto stavolta? No, si è rauca e basta. Vabbè, rauca la voce. dico che no, puoi far trappare. No, no. E allora 48, Cappa, oggi va bene. Beh, signore, un attimino di pausa, avevo. Grazie. Dimmelo. Ci abbiamo parlato sopra Pierpaolo. Ma Pierpaolo, che potrebbe essere arrivata? Prova. 1, 2, 3, prova radio. Prova Pierpaolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, te lo so segnare, non me. No, perché ho parlato sopra, probabilmente non mette. No, sto dicendo, io adesso devo interrompere, dai. E vi saluto a tutti, buon proseguimento di conversazione, buon tutto per domani. Ciao Gianni, ciao Pierpaolo, Natalina e tutti gli amici all'ascolto. Ci sentiamo alle prossime. Cuore reti da parte mia. Ciao, ciao. Ciao Robert, ciao, ci sentiamo. Buonanotte. Avanti Pierpaolo. Ciao Roberto, buon pomeriggio. E buona ricarica. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao Roberto Cruz. Cazzo. Oh. Cazzo di poche parole, cazzo di senti che voce che ho di frase. La voce maschio. La voce maschio è questa. Invece a me ne faccio in miragana. Che cosa? Ma io sto andando a mandigare, là, ci sentiamo dopo. Sì, vai a mangiare il cioccolato. Io modulare, ma sta facendo la guglia. La provincia. Ma forse mi sto stufando. Magari stasera. Stasera si sento un po' giù. Sei giù. Alla morte. Non lo so. Secondo te questo te come sta andando con la sua? Sì, vanno bene, voi sono tutti quelli, o quasi. Io ho notato che la cosa. Sì, beh, a seguito dall'attacco di Internet 3 all'Alan 48, all'Alan 48. No, ma che ce l'ha giocato il mondo? Io non posso attaccare a due diversi, perché questo ho fatto lo spettacolo uno e lo spettacolo l'altro, e ho giocato la tavola a uno e all'altro, non faccio altro che attaccare. Sì, ho capito che hai fatto lo spettrone, là. Che ho fatto lo spettrone, lo posso attaccare a due. E così ciò, anche qua, mi viene dentro, capito? E non lo so, la prima mi hanno detto che è strappata, tu? No, già sta andando. Poi c'è girato tutto. Ha tutto il cursore ma non sa facile e può anche da anche quello è forte a quanto si è comprato a metà e io sono a due là. Non ti mi sono ascoltato tutto mi sento che non siete bene quando sono lì. Quando vai a usare la metà, che ci sia la no, questo già lo puoi alzare un po' di più, invece il timer lo puoi alzare di meno perché è troppo forte. Secondo me apparecchio non lo puoi alzare. Ma tu guarda il giorno del sole, non è di qua. Sì, sempre il solito, con quello che usavo in macchina. Va bene, molto chiaro. È molto chiaro. Sono un po' piccato, ecco un po' di controllo, perché ho questo qua già 5 volte. Chi è? Duga, tu sei? Senti. Luca. Ciao vogliamo, una sera Giovanni qua i primi. Luca Cassari e Stefano per la 1 Cassari, avanti in Lugia. Domenico, stazione Tarda, qua, direzione Olbia. Buonasera, ciao Doppiavella, anche a te, Luca, che senti? Ah, Domenico, sì. Mi manda la strada, vero? Sì, Giovanni, sono, ci siamo sempre qui 3-5 con Fabio e gli altri, qualche volta. Giovanni, buonasera, ben sentito questa frequenza. Sì, noi siamo tutti battagliando qua. Così, via. Vediamo un po' se si sviluppa, no? Pierpa. Sì, io ero ascolto, Domenico. Buonasera, Domenico, mi hai sentito? Non sentito. Si è occupata il microfono. Però con quell'apparato lì. Ega. Non fa normale qua, va bene. Ma non manco, non posso trattare di lui. Certo, questo. Ma la cosa di tratta, sì, va bene. Sento il rumore della tazza. Quel tacca. Tacca. Già non credo che si senta. Ma che non passare? c'è 1, 2, 3, c'è il batto, vai da Como. Sono Martì. Ehi, a me veda, capa. A me Gianni. Vabbè, San Pippo, pescato, E un coso ho preso, la ciabatta. Un coso, una simpia ho preso. Una lotturia. E me lo stava mangiando già. Cazzo, ieri sì, ieri stava mangiando un bel. Se non abbiamo dovuto con la mano da rimane, gli anni abbiamo ammazzato. Ciao un coppo, il tuo mito, Alessandro. A me, ho fatto con la cannabis. Ehi. Ma infatti vuole messo il coppo sia la sempre che il coso, anche la Mario non si è più messo il coppo, perché se va a staccarsi se ne cade dentro il coppo è fottito. Lo so, beh, quello che posso dire era grandissimo già, poi è un po' grande. Ti sei stati quelli fuori misura, quanti chilo va pesando? Quanti chilo si dirà, sono stato più di un chilo, dai. No, pensavo che era di quelli giganti che entrano nell'oceano. Ci ha fatto uno di 20 kg, mi pare. Sì, siamo un cazzo di dati. Siamo scorsi. Mi sento il suo legale che c'ha qualcuna. E poi la roba, Rea. Siamo la ragazza, mi ricorda. Ah, ma è porcona. Chi è tu, le dici? Aspetta. 21 e 57. Yeah, giusto, capa. Dammi lo controllo, lo vago, come te lo scende? Ma io scende. Poi da Como? Ah, sì, allora fammi passaggi perché stavo guardando alla percezione. Che fa sente? Non mi intendo, se. Sono 6-9. No, oh, perché apri te la so. Il anno per 9-5 uscita. Ah, cavalcare volevo dire. Capo di te, ho capito. No. Sì, ma quel locale che c'è nella caverna, quello che c'è su cavalcavia lì. È una volta. Ma guarda che è un locale di chi? Ah, è tippato di tuo. Se mi ha ricattato un ultimamento. Aspetta. Ma dai, io lo faccio ubriaco lì, oh. Se io non faccio una cosa. Ma aspetta, quello cane che c'è, scendo lì al cavalcavia, e si a destra. C'è a sinistra, c'è a destra. Non devi girare, non rimane proprio sul cavalcavia. All'inizio proprio. Tu venendo praticamente dal cimitero, da San Paolo, nel viale San Paolo, vai dritto, senza girare da nessuna parte, e te lo trovi proprio sul marciapiede del cavalcavia. No, io ti trovo, tu poi scendi, sono da sinistra, scendi, guarda troppo, dopo come si stava, come stai di dietro. No, è quello nuovo che ti sto dicendo che hanno aperto già, c'era un periodo, sarà un annetto da. No. Guarda, facci caso. È proprio sull'inizio del cavalcavia. Che rimane sulla destra, scendendo da Viale San Paolo. Ciao presente, ciao sta. Mi un fulete, un co, ma non fatti presente. Ma non è più buco che non cali di chi. Io volevo entrare una volta per vedere com'era, poi uno mi ha detto, ah, che di chi che se non vai. Abbasso. C'è un locale di frocci. Vero, è per te. Ma perché no? Mancare dai. Qua siamo, via, grazie a te, leggerla. All'inizio, eh. Non sei chiaro qua. Insomma, non sei andato al locale più. Come ti si tocca, prima io andavo al polvere degli specchi, quindi era bellino, si mangiava il panino, si beveva la birretta e c'era musica, davvero. Quello è un locale di para. Ma cosa, no, più lì è tranquillo. È tranquillo, un locale, ma io sono stato bene. Ma è un locale di para. parlato un amico, conosceva il cuoco, conosceva tutti, Luciano, e siamo entrati dentro. Questo. C'era Alberto Angelico come coro, come diciamo complesso, e Carton Berbera l'ha cantato, no, bravo, eh. Che mutata le carte belle ci sono? No, non ho bisogno di regarle, no. Non ho bisogno. Non penso a te che non ti visiterà Gabriele. Cosa per fare? Okay. Ti metto la portata quando parlo. La portata? Io. Non ho capito cosa mi hai detto. Ho detto. No, la sigla. Se di asso così per finto, vabbè, non deve essere che non te lo vuol far dire. Avanti, Natale. Natale! No, Natale va chiuso. È chiuso. Che è rimasto Cuca solo, Cuca. Io ci sono. Poi Antonio. Venga. Mi curate la micusa. No, adesso va in cappa. Adesso per chi sono gli animali. Tu devi farmi vedere, no? Tappa tutti. Succede domani. Passato. È un uomo mezzo matto già, devo dire, già curate. L'ho sentita io a compagno. Poi prova a parlare tu. Io boh, non lo so se ce l'ha anche con me, boh. Però quando parlate voi due con la me. Un bel forte segnale, 9,50 qua. giapponese si chiama. Ah, ma questo. Sai cosa non devono andare a fare, già, ragazzi, con di uno? Non ce l'ha con me. Mi sa che ce l'ha con Gianni e con voi due, perché poco fa parlato non me lo metterò. Sì, già se l'ha messa. L'ha messa? Tutto il giorno non è capito niente. No, forse tu non hai compreso niente. Allora, è troppo forte, ci fa bene. Sì, ti fa 9,50, tu lo passi però il braccio. Ok, appena. Allora, e non ti lo posso? Non lo già. No, no. Per fare un duraggio proprio questo è prevestibile, non lo so, non lo comprendo. Vabbè, deve essere che non gli piace la pace, vuole fare in cavola la gente, ma lo so fare, se non fa più. No, vabbè. Infatti, stavamo dicendo di questi dischi, già. Io mi auguro. Sapete che... C'è stato un break, c'è stato, avanti! poliziotto perché c'è portato. Buona guerra, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. un occhio sempre per chiamare direttamente, capito? Però più o meno si sa chi è. Ma cosa cazzo sai già nei figli miei ricattati? Quindi Claudio, lì a casa c'è gente che ti ha scoperto chi è, va bene? Quindi, se tu dici che è ricattato. Gianni di Firini, a tutti lì, che ho 8 antenne io e non le tolgo piedi, è una settimana che vi sto seguendo. Continuate, buona guerra a tutti, arrivederci, ciao Gianni, a tutti lì, ciao Pierpaolo, ciao Antonio, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, ciao Claudio, c'è proprio la cosa nei piedi. Secondo me da uno che senza testa che mi butta parecchio. Quindi ci sono persone che bevono, si sprondano, questo è il pronto da campionato. Bravo, adesso hai parlato bene, ciao. Ciao, ci sentiamo, ciao. Allora, vediamo un pochino, avanti il mio cane, avanti Lessi. Lessi, Lessi la portante. Provocaggio, non siete fatti bugie a tutti, tanto non so pochi chi siete fatti bugie. Guarda, non mi interessa, io non sono umano, è una cosa importante, non mi ripeto a ma ci soffro. Anche. Sì, lo senti, guarda, metti la portante, metti. Forse non le altre. Questi, ma questa gente guasta, la gente guasta Claudio, non ragiono per niente. Sto parlando di altre frequenze, non ti posso rispondere ciò. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Mi prendi già. Sto in ascolto. C'è gente che mi sta ascoltando, sta solo ridendo, guarda. Ciao. Sì. Ma riprendi, riprendi. Mio cane. Avanti, riesci, riprendi. Può fare così, guarda che è stata fuori. Avanti, riesci, vedi si chiama, non ti vediamo se è un mio antico. No, non so, presuppongo che si chiami lui. Visto che tu mi pensavo che il tuo sarà più chiuso in bene la fine. Vabbè, non me la portate, io la insegnare, lascio, vai. Ghiaccia. Aspetta, te la schiaccio io, Luca, così mi dici che sono numero 3, eh? Sarà parato più doppia. Sì. Allora, salute perché non schiaccia, lui ha il senso dell'inferiorità. Ma tu te le mangi se te la metto io la portante qua, se c'è la Sassari? Cazzo, già lo volevo. Bello, abbasso, continuato. Perché non vuoi aiutare? Infatti, sto aiutando, perché sono sempre d'accordo, ma sento cose un po' allucinanti, attenzione. Allucinanti? Nella parte nostra? E la parte di un po' di gente, numero uno, numero due, numero tre segnali, quello, quell'altro. Mi richiede a me. Bravi. Continuate a parlare, sono quelli. No, quello l'ho detto io, l'ho detto io. Io ho detto solo che sono tre segnali, ho aiutato addirittura il Claudio, Franco e Nicola, non ho detto. Tre segnali mi arrivano così, poi c'è sentito un altro, non lo so, tutto qua. E come tu vedi i segnali, cioè tu c'hai il mio segnale, c'è il segnale di Franco, c'è il segnale di Gianni, c'è il segnale di Natalino. Ho detto io quello. Non lo so. A me non sto solo ascoltando io, ciao. Ciao, ciao, Claudio, comunque no. Non ti abbiamo menzionato, diciamo così, come prima persona, abbiamo solo detto che c'è anche la prestazione, che è una certa potenza. Ma non credo che tu sia una persona che fa di queste tasse. Per il tempo che ti conosco mi sembra abbastanza semplice su cui. Eccolo lì. Quando è importante lo dici, per come ti conosco. non mi sono mai nascosto dietro il microfono, hai capito? Quando ti devo disturbare te lo dico, chiudi la radio, io vado a fatti. Questo è il mio motto, faccio fa picchiare amici che è lunga, io sono sempre nascosto, quindi attenzione. Non svegliate i cani che stanno dormendo perché ho voglia di dormire, ma tanto, tanto, ho tanto sonno, perché mi hanno già telefonato dall'altro giorno e non ci sono solo io l'ascolto, un volto come parlate, perché ce n'è un bel di gente che sta ascoltando. Amore, te ne sono poche parole. Buonanotte a tutti. Ciao Claudio, buonanotte, ma sostanzialmente io non ho paura di nessuno, questa è una premessa. Se tu vuoi mettere forzante perché ti interessa mettere forzante, lo pure, ma non ti abbiamo accusato, se le fosse vista tra l'infinito. Se tu c'è qualcuno che vuole appellarmi gli orecchi, io la figlio, ci sono dei metodi incredibili. Ho detto che io ne faccio vendere tante radio, ne vendo ma ne faccio vendere tante, quindi rispetto, ribadisco, ho buon intento e poche parole. Parlate, che mondo è mondo, le portanti sono molto difficili da cercare, ci vogliono apparecchiature per farlo, quindi evitate di fare nominativi o preferenze, diciamo preferenze, che fosse meglio. Io non ho preferito mai nessuno Claudio. Qui chi ha detto che la stazione Y l'ha detto puramente così, solitamente per... Quanto lo potevo dire io, Nicone? Perché c'era una mezza intenzione di accusare, non sappiamo accusare, ho sentito anch'io. Assolutamente, abbiamo detto che sono tante queste misure, è lo stesso discorso che stai facendo tu, è difficile da trovare, l'abbiamo sentita da adesso la portanza. Ho sentito già troppo io, non ne vorrei sentire più, io mi sono ritirato, ma lasciatemi stare santa pace, io mi sto sempre ascoltando, tutti i giorni mi ascolto. Ti ringrazio. Abbiamo un altro indice di gradimento, questo mi fa veramente piacere, che siamo delle persone semplici e evolute, fa veramente piacere. Grazie Claudio per l'esperienza, questo è un complimento per i poveri cibi. Povero Lugania, farà bravo. Io sono una persona brava. Ho sentito la portante Claudio, quindi non puoi essere tu, non puoi essere tu, senza niente. Questo che se la metto io lascio il segno, e torna. Ehi, tira là, e vediamo che passo. Non solo di passare tu, no, che sei un poveretto, le parole... molto tenere, se ti offesa, ma non passa neanche il mio vicino di casa, immagino già di due. Sì, sì, sì, sono un povero tutti. Io voglio. Non so cosa dire Claudio, perché non so se le parole giuste per rispondere. Tutti i dini già, continua a parlare, ciao. Da ultima chiamatemi stazione poveretto. Poveretto è un segno buono, poveretto nel senso che si basso di segnale. Non ti piace poveretto, attenzione. Ma è uno che passo di segnale, non c'entra niente con il corso che stavamo facendo. Non lo so, no. Questo si dà. Io se voglio aumentare il segnale, sinceramente, lo posso fare. Perché altrimenti ho la capacità per farlo 100 volte superiore alla tua, anche a qualcuno che resta molto alto, però non mi interessa stare qui a combattere questi attriti, non serve a nulla, non sto parlando di potenze, di segnali di antenne, sto parlando di un mente cacche, di frequenza, è diverso. Ma non ti capisco cosa vuol dire 100 volte, può so se ne puoi mettere 1000, hai capito? Allora io sto parlando di Sassari, poi dove vai tu a me non mi riguarda, io ho le mie capacità e mi difendo come mi devo difendere, non ho bisogno di tenere nessuno. Io sto parlando di Sassari, tu puoi mettere 1000 watt e a Sassari da qua non la coprirai mai, perché qua è 980, quindi fa col PL le 9, fatti il conto, cosa già ti posso dire. Ciao già. Ma guarda io, diciamo che appendo male a vicenda, appunto non ha senso che io abbia o non abbia le capacità, non ha senso. Ma non ha senso combattere con un muro di gomma, non serve a niente. Quello si sta divertendo, no? Se devo di parlare. Mentre che io l'ho già reputato un mondo cazzo. E altri hanno reputato un deficiente, quindi non so cosa dirti. Vabbè, dai che sono in altre bande, in altre frequenze, no. Se non ci capisco non ci rende. E prendete il vostro cuocio tranquilli. Evitiamo di fare polemiche, intanto non sappiamo né tu né nessuno chi è già da parecchi mesi che rompe le palle, perciò io ho preso le mie decisioni, non per lui, ma per evitare polemiche, per evitare risse, capite? Quindi divertitevi e buonanotte a tutti. Ciao, Pier Paolo, riprendi la tua, sai che c'hanno con te un tuo figlio. Sono qui a disposizione di tutti i nostri, e c'è sotto, quindi se qualcuno vuole qualche cosa, può venire anche di persona, così chiariamo se ci vanno con me. Perché io così dietro la radio non riesco a chiedere. Se vuole chiarire diversamente, diciamo che è. Le parole alla volte sono anche un conforto. Hai ragione, sei un grande. Questa è la sua storia, mettono a portante, non lasciano parlare, c'è quello più forte, quello non lascia uscire, di qui, di lì, di là, capito? Fanno bene a nuovo quando vedono queste persone così, lo fucilato a fare il tollo, lo buttano dentro un pilastro. Ma che c'è per non buttarmi dentro il pilastro? Cosa devo fare già? Io spero che sabato e domenica sia tempo buono. Poi ti faccio vedere l'antenna della 27 dove c'è. Io penso che dal calcio quello arriva alla finale. Ma taglielo però. Taglielo veramente. Perché questo genere di persone sono veramente imbecilli, capito? E non sono da lasciare in radio perché non lasciano usare le persone. Come hai sentito sono pacifici e tranquilli. Era una frequenza morta, mi siete messi le remature a riattivare, avete preso un sacco di capicca, arriva un deficiente, torra picche, è chiaro che poi se ne vanno tutti. Proprio per quello hai detto bene, io che sono stato il primo fondatore, visto che assassinano tutti i morti da 20 anni a questa parte, assieme a Gianni, assieme a Luca Venutolopo, a Natalino e tutti i resti. Ho preferito ritirarmi in buona armonia, salutando a tutti e augurando a tutti buon viaggio. Perciò, per non vedere più l'antenna, per non dire ecco quello è Claudio Sparviero che sta mantenendo la portante, sto solo aspettando il tempo buono, guarda. Ti ricordo io non sono sotto antenna, dimostrabile al 100%, io sto usando tipo 10 metri puntato a nord. Perciò, non ho nessun problema, capito? Il cavo è attaccato, lei è attaccato qua. L'antenna è libera, però la devo togliere da lì, la devo togliere e buttare via. Così non si vede più e ci saranno solo antenne amatoriali. Almeno la gente non può dire che si mette sotto casa come ne ho trovato uno a poco. Ma dire che Claudio Sparviero disturba la 27, io sono nato il 27, sono un grande radioamatore. Capito? Ho sempre difeso la 27, ho sempre messo ordine, continuavo a mettere ordine quando mi è stato consentito. Siccome è un periodo che non mi è stato più consentito e che nei pozzi hanno fatto parte della 27, allora rangiti la valvolette della 27. No, è stato un sorriso, mi sento buono, eh. Comunque ce ne sono tanti che non li abbiamo a scoprire. Io adesso conosco Mirko Vaz perché è una grande persona, un'estimabile persona, come rianimatore, come uomo, come persona che porta qui, come persona in gamba, stupenda. Walter è uno dei veramente di grande rianimatori, e quello è un grande rianimatore, pure non lo so. Claudio, cosa tu intendi? Perché sai, non so cosa lottare, non serve. Io basta cosa hai detto per te. No, è per non metterli indietro, ecco. Hai parte dei grandi, però se ne sono cambiati, c'è Marco Scorpio, un ragazzo è riuscito nel lavoro, riuscito negli affari, riuscito in tutto, riuscito come uno dei migliori allenatori di Europa. Quindi sei un secondo grande. Non mi capisco dire veramente, perché ne conosco tantissimi, che sono grandi. No Claudio, no. Quello che ha fatto è così, se può fare la sua, pure. Sarà qualcuno che ha voglia di lui, forse li ha accusati giustamente, ma c'entra nulla. Ce ne sono tanti, come si dice, che erano più grandi, che entrano in 26, e lo si dice anche la terza parte, il grande persona, e pure, non so, non ne parla di questi fondamenti così. Io ho detto che l'avete riattivata tutti assieme. Se te ne prendi meno che è perché lo senti proprio di dirlo. L'ho sempre tenuto, ho sempre fatto pulizia, ho sempre cercato di guardare cos'è qui in radio. Forse ho sbagliato nel dirti o io sono un grande radioamatore perché sono un grande amante delle radio. Non sono un radioamatore come Walter e come Marco, capito? Non sono amante di contest, non sono amante delle grandi cose. Sono amante delle radio e quindi sono un grande radioamatore. Di radio ne ho 8, con l'ultima arrivata, e perciò mi reputo un grande radioamatore. Capito? Mi piace fare radio in tutti i sensi, qua, là, a destra e a sinistra. Ho visto che qua la radio non si può fare perché un radioamatore non significa che deve fare solo radio nelle bande amatoriali, significa fare radio, essere un grande amatore delle radio. Capito? Quindi io sono un grande radioamatore, perché sono amante delle radio e mi piace fare radio, in tutti i punti di vista. Ma siccome qua non si può fare, mi sono ritirato, va bene, visto che le persone mettono sempre in mezzo cose che non devono mettere, allora divertitevi e fate quello che volete fare. Se riuscite a mandarlo avanti vi faccio sempre i miei migliori auguri. Quando Claudio Sparvieri non ci sarà più definitivamente, direte forse aveva ragione Claudio Sparvieri. Ok? Ciao Gian, e comportati bene che ti sto ascoltando e mi sembri fatto per il falcone quando parlo. Quindi che c'è di tutto, drammato, corretto, pubblico, stupidaggine, in croce. Non c'entrava proprio niente, un po' come dici che se nano sarà, un stupidaggine, capito? Stupidaggine, vedi come sei corretto, non ti ho parlato male, mi sono espresso come meglio crede, per dirti quello che era pensato, ti sei aggiunto, tu... Ti dico che fai passaggi più corti, che ogni volta che ti sento che c'hai il microfono in mano, parli solo tu, va bene così. Infatti non ti ho invitato a essere il rischio, certe considerazioni ti riporti a te, non tu dici. Va bene, alla fine anche per te le stesse considerazioni, ciao. Continuano a farlo, è logico. Va bene, ciao ciao, e prendi già. Vediamo un po', le più lunghe, le più di posso fare una domanda già? Come mai da un po' di tempo a questa parte, quando ci sono io, stai entrando nel canale 10, mentre prima parlavi al 635? Ma guarda, sinceramente gli amici che sono al 635 vi mandano di una vecchia. Neanche. Io conosco una famiglia di abbiamo delle passioni comuni, ho fatto 6 anni, ho aperto, non è stato in comune con me, mi sono avvicinato un po' a loro, anche perché là non è che la scopo di distanza, è rumorosissimo, ha dei problemi, è stato un po' di tanto, è andato in un posto, però siccome si è un sacco di persone, mi sono un po' soffermato, non è che l'ho fatto perché non si è andato, mi sono fermato, sono andato nei primi incontri. Ti stai sbagliando, guarda Claudio, ti stai perfettamente sbagliando. Ci ho fatto una domanda, non iniziare a scendere nelle camere di mezzo. Mi hai risposto, va bene così, non ci sono problemi. Una domanda deve essere pure un sceriffo, no? Perché mi hai fatto questa domanda? Così. Pubblica amministrazione, domanda che hanno fatto a me, io la sto facendo a te. Va bene così? Io ho fatto che hanno fatto una domanda. Che ti hanno fatto? La trovo così. È venuto così. Ho detto già mi fai una domanda del genere, no? Perché non scendi le 10? Quindi tu mi fai la stessa cosa che mi riporto a te. E te l'hai rumoroso. Mi sto pensando, me l'ha abituato lì, adesso, vabbè, perché per qua ha fatto il volume, però comunque rumoroso, non è che cambia con me. Vabbè, alla fine stiamo facendo questo. Ciao Gianni, ti saluto, arrivederci a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, ciao, buonanotte, siamo fermati a qui. E Gianni? Avanti il prezzo. Ciao Angelo, buonasera, dice che mi chiede di Claudio. Ancora vediamo un po' se c'è ancora chi ti ascolta, Claudio. Ah, Gianni. Gianni, che altro c'è? Ecco, benissimo, avanti Angelo. Ebbene, al coro. Su, su. C'ho sono prima di scendere verso la terra. Sì. Ah, in cappa, dove c'era il circolo di Nerazzo. Esatto, bravo. Sì. Vogliono già, perché se sembra così però già te ne dico. dottore ha fatto tutto di voi, no? C'è l'ultimo che se vuoi succede un pasticcio, giusto? Quindi, in base a quello che fa, vedete, come sta dicendo il suo figlio, mi prendete? Fanno una cordatura e andò via. K. Sì, lui lo comprenderà. A me non serve la voce, quando si apre, si sente l'influenza positiva, c'è il trasportatore interno, c'è il buffoncino, si sente bene anche l'altro. Ai tiri ce ne sono parecchi dei radioamatori. Quindi? Sì, ce ne sono, allora, uno, due. Due ce ne sono qua. Poi vabbè, il CD è un'altra cosa, non è radioamatore. Radioamatore ha un'altra funzione. Sì, di quello di che c'hanno delle piccole macchine pure, dai. No, il CD è quello che ci disendende, l'indicazione banda cittadina a un ristretto numero di canali e una sola frequenza. Praticamente spazia da circa 26 qualcosa all'estremo della 26. Quindi è molto ristretta la banda dove opera. Perché c'è uno che ce l'ha Clio rossa. Ah, sì. Ma c'è tutto CP quello. Che zoom il guy. Va, bello. Anche. E poi si devono sul CP. Devono sul CP, ho avuto un cassetto. Il finito sono di cartonato come il CP, no? Ma ti sento chiaro adesso? Oh. No, ma già c'è sempre chiaro. Questo è un apprezzetto che al finalino hanno uscito un locatolino che dice già si è sentito per quello che avessero io. K. Vedi che ti intendo con te. Vedi sempre che ti impanda. Mi piandana dalla mia. Veramente? È una decisione di piandanna sono. Ah, i due sei. Sì. Non sei il tuo asso. Sto dicendo che bene però, andrà bene mi dice a Parigi. Cioè, come si dice, l'hanno potuto farmi in finale di mia panca. Tra Midland e Intec, prima avevo l'Intec avevo. L'Intec è più spartano, sinceramente sono Midland più preciso come apparecchio. Più chiaro è il Midland. Sì, più ben costruito, una situazione diversa. E una macchinetta più versatile. Poi ne ho un altro piccolino, Intec lo stesso di quelli 40 canali, capito? Solo così. Che l'avevo prestato e me l'hanno tornato bruciato. Via. Bruciato, però non ho capito che l'ha fatto. L'avevo prestato e mi ha bruciato, non preciso. Mi sono perdendo la una voce. Vabbè, dai. Un CD qualche volta succede, là. Non condanniamo nessuno. Una distrazione, un attimino, e lo faccia. Io. Dove siete? Come? Non dico che mi intende, ma... Che di intraterra. Beh, sono prima di Siusini. E hai sempre sempre cosa spiegare. Dovreste zona negativa o a via, mi intende? Di Siusini è tua mia. Inteso, 8 no e dopo. Discese del ponte mi. Sì, ma come lo si preso il sonoro? Come andate bene? Come non si risponde le due non mi intende? No, come si intende le due? Sì, chiamo pure il nuovo, abbiamo già... Se siamo vestiti noi stessi, con senso di segnale. Appagato. Sì, grazie. Sì. Sono fuggi, sto giocando, però come dico, non c'è apposta, non è vita, telefono la stessa stagione fino a bello, questa è una ditta italiana che oramai sta venendo dai piedi, fuggi, c'è qualcosa a una, tu compri la giù, mi dura una fisica. No, per la GPC. No, tre saggi in Italia, telefono tre saggi. Quindi anche se non riguardare due numeri dai giù, c'è sempre la mia casa, il telefono. Guardare due numeri e il telefono, già. Lì a Ostia non ha un corretto, qui c'è stata la ragione. Gamma, gamma. Quindi uscire dei direttori di cambio non essere un corretto. Contesto. Poi se ne dai due, lì la risposta era su quanto si mantiene, quello. E via dicendo nulla. È chiaro. E chi fa che si intende da appena di un po' tempo? La lista di usi di qua. Oh, e io due che non so più c'è più giù, più giù, bla bla. E mano a mano di vita, siamo voi. Le sempre messe. E chi si narra di Mistri? Chi si narra di Mistri? Mistri si travaglia del punto. Per il punto di lui, si travaglia da questa punta. Anda, rosa, vai, vedi, cerca per tenere. Kappa, kappa. Oramai no, no. A sinistra. Sul travaglio, sto qui. Ecco, rasa, a zivaglio. Rasa, ma poi, intervento pronto. Macchinario di dentista, macchina taglia blu, che è un cavolo laser, televisione, diversificatore, antenna, impianto satellitare, tutto da buco della faccia del malato che mi lo guardi con te. Ma ognuno è il tuo? No, e non si crede che questa merda, no? La giganta dei bumi, mette lì. Prende fatto mille macchinario, però è troppo campaginare in giro. Oppure bisogna troppo dai. Ma no, no, no, veramente, in questo periodo sono da turistica, è critica. Non avete mai capito un po'. Cappa. Compreso. Prima di all'inizio che bisogna essere giunta lì a una buccia cosa, come che vuole una cosa mela? Ehi, questo è il guasto, chi non fa più di uno massato non finito. E il massato vuol dire apparecchiatura che non sente, non è così. E il massato è apparecchiatura che non sente. Avete portato il seguito, già, non funzionava già due anni o tre anni. Come si giunta a garantire, perché non è vero. Sì, mi scusi. Faccio a garantire male, meglio che si giunta, signora. Troppo contento, troppo rotto per sapere che non ha fatto, è tutto di dentro. Ma allora non è riuscito, si qui solo credo. Ma non legge manco uno, non legge solo si qui. Quindi sarà sporca la lente, quello si dà errore. E allora comprati un pulitore per lenti e te lo metti a posto. Un pulitore, guarda ci sono quei dischetti, tu dici che amministra che ha leggirato l'uovo, cioè. Ah, vai, la figlia strada, un pulitore per lei, un CD, ah, guarda che ha dei schiletti attaccati, lo riconosci da quello, li incosti così. Lo prendi, lo metti sopra il liquido, e poi ti sarà andato lui. Ah, capitano, hai la pillina, una... Io stratina una fuga strada. Siamo, ma sto sperando una strada. Che cattivina è? c'è trafficca la mela, vale che è trafficca la mela. Con un po' di tutto facendo il nostro operato.